Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Si è chiusa dunque con due sconfitte e un pareggio questa avventura italiana nei gironi di Europa League. Poco male ai fini della classifica, perché la qualificazione era scritta e il secondo posto soltanto l'Inter avrebbe ancora potuto raggiungerlo. È andata un po' peggio, secondo me, ai fini della stabilità, perché facciamo un ordine crescente di gravità. Beh, il Milan ha confermato una volta di più che se Ibra c'è è un discorso, se non c'è è un altro. E questa dipendenza da un solo giocatore non è mai un dato rassicurante, soprattutto dopo che la squadra intorno a quel giocatore ha avuto modo nei mesi, nel tempo, di ritrovarsi. La Roma ha non saprei nemmeno dire che cosa è riuscita a combinare al gol del pareggio del Clusi, nel senso che c'è stato un litigio, pare, tra Totti e Burdisso e tra qualcun altro, ma insomma la realtà è che quel gol, per chi ha visto la partita come me, ha fatto di tutto per farglielo fare, perché non si sapeva più come far crossare gli esterni del Cluj o del Cluj, che dir si voglia, e come far saltare a colpo sicuro gli attaccanti rumeni, evitando appunto di staccare a turno uno dei due centrali. Ma al di là di questa manfrina, in cui appunto questi si davano, ripeto, i turni, perché evidentemente si erano guardati in faccia prima della partita e nel dubbio che mai il Basilea avesse fatto un'impresa a Monaco, cosa peraltro che non si è verificata, ma che aveva poche probabilità di verificarsi, evidentemente c'era stato qualche accordo, non accordo, qualche occhiata di solidarietà, mettiamola così. Però un'altra cosa abbastanza seria è che anche stavolta non si è capita la gestione dei cambi di Ranieri, perché ad un certo punto si è visto nella ripresa chiaramente un labiale di Borriello che urlava al suo portiere Lomont di non rinviare dalla sua parte, perché aveva male a una spalla Borriello e l'aveva già dichiarato nel primo tempo, era stato giù per un bel po'. Quindi di rinviare dall'altra parte, quello non poteva saltare a causa sta spalla. Allora, dato che c'erano Vucinic e Adriano sanissimi in panchina, sinceramente non si è capito perché in una partita così, che per l'appunto, visto anche il finale e il gol le modalità del gol di Rumeni, probabilmente non era l'ultimo sangue, non si è veramente capito perché far rischiare ulteriormente una spalla a Borriello. L'Inter è andata oltre, perché ha praticamente esonerato Benitez a 10 giorni dalla finale di Abu Dhabi, ma per il momento se lo tiene, no? Cioè lo ha definitivamente delegittimato con parole e musica del presidente prima e dell'amministratore delegato oggi, però ha deciso nel frattempo di tenerselo, quindi direi un discreto ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata per le squadre italiane. Sentiamo alcuni commenti per cominciare, in attesa poi dei vostri. Quello di Allegri: ti dispiace sempre perdere, poi era una partita di Champions, quindi bisognava fare qualche cosina di più. Ho giocato, ho fatto alcune buone cose nella parte finale, altre meno buone, ma come tutto, quando la squadra nel complesso offre queste prestazioni sicuramente è difficile per tutti esaltarsi. Credo che anche alla fine abbia messo 2 o 3 palloni invitanti per Ibra, un altro per Robinho, ma stare qui a valutare la prestazione di Ronaldinho credo che abbia poco valore. Credo che l'importante era fare una prestazione diversa, non l'abbiamo fatta, dobbiamo fare tesoro di questo e soprattutto al partire, perché domenica abbiamo una partita importante per il campionato, che è quella di Bologna, visto che in Champions erano già qualificati. Oh, Bologna che nel frattempo ha messo in carniera altri 3 punti con la sua vittoria di ieri nel recupero del Chievo, una vittoria insomma, tutto sommato meritata, anche abbastanza fortunosa per come si è concretizzata all'ultimo istante, mancava veramente pochi secondi alla fine, però una vittoria che continua a essere ancora più meritoria vista la situazione societaria in cui Bologna si muove, viste le difficoltà di questo periodo. Allora, per non interrompere il discorso sulle coppe, rimandiamo a un pochino più avanti i commenti sul recupero del campionato tra Bologna e Chievo e torniamo invece ai dopo coppe con il commento di Totti a quel finale un po' convulso della partita rumena. Ma è stato un piccolo scherzo che in campo purtroppo capitano, lui non voleva pareggiare come nessun altro voleva pareggiare, siamo riusciti a fare il secondo gol, abbiamo preso il gol del pareggio, lui si è arrabbiato moltissimo non solo con me ma con tutti gli altri compagni, però il campo succede, poi in uno spogliatoio abbiamo chiarito tutto. Ogni volta cerchiamo sempre di reagire nel migliore dei modi e fortunatamente, avendo un grande organico come la nostra squadra, riusciamo a trovare sempre i nostri benefici, però cerchiamo da oggi in poi da ripartire e centrare le qualificazioni prima possibile, non aspettando sempre alla fine. Il bilancio delle italiane in Champions League in totale è di 8 partite vinte, 4 pareggiate e 6 perse. Dunque, delle nazioni rappresentate da 3 squadre, mi segnala Franco Piantalita, ha fatto peggio solo la Francia, che ne ha vinte 8, 1 l'ha pareggiata e 9 le ha perse. È salita la media gol dei gironi a 2 gol e 85 a partita, lo scorso anno era stata di 2,48, poi qualcuno di voi ricorderà alcuni di questi gol che sinceramente non si vedono nemmeno nelle partite tra Scapoli e Ammogliati, e quindi questo dato è destinato magari a ridimensionarsi. Il Manchester United è stata la difesa meno battuta, con un solo gol subito nel suo girone, il Tottenham l'attacco che ha segnato di più con 18 reti. Due novità assolute agli ottavi, che sono il Copenaghen e lo Shakhtar Donetsk. Il Copenaghen ci verrà secondo, lo Shakhtar da primo, e quindi sarà certamente l'oggetto del desiderio assoluto da parte delle tre italiane il prossimo venerdì 17, a proposito di date, quando ci sarà il sorteggio appunto degli ottavi di finale. Ultima curiosità, quella dei cartellini: Manchester United è la squadra meno cattiva in assoluto di queste sei partite, con tre sole ammonizioni, il Chelsea 4, quelli del Milan 17, quindi una media di quasi 3 ammonizioni a partita. Abbiamo il tempo adesso di sentire le parole, ma anche i toni con cui l'Inter ha ha praticamente esonerato, ma non è che lo dica io, lo stanno dicendo tutti, ha praticamente esonerato, ma come dire, a futura memoria, ma postdatato, c'è questo esonero postdatato di Benitez. Devo dire, psicologicamente male, perché certamente non fa piacere, sono interista e come tutti gli interisti ci rimane male. Ma vabbè, tiriamoci sui morali pensando che c'è un appuntamento importante adesso, e che tutto questo è avvenuto perché psicologicamente si sentivano un pochettino costretti da questa finale, e quindi più prudenti del solito, e prendiamola così per vedere poi di far veramente bene a questa finale, dove credo che ci voglia un grosso supporto psicologico, anche perché i giocatori riprendono a fare quello che facevano prima, oltre che fisico, insomma. Un po' me lo sentivo che poteva essere una cosa non così, ma insomma simile. Quando perdi ti senti sempre tradito. Non penso che le cose vengano fatte apposta, credo che ci sia in questo momento un carattere che non è sufficiente per poter superare qualsiasi ostacolo, insomma. Beh, insomma, i toni non sono particolarmente grevi, però lo sono i concetti. Torniamo a un bilancio complessivo di questi gironi di Champions League, che si sono finalmente conclusi, perché finalmente, per l'appunto, ai primi di dicembre puntualmente finisce la Champions League e sta per cominciare la Coppa dei Campioni. Passano due mesi e una settimana, ma poi comincia la Coppa dei Campioni, quella vera, in cui si gioca e si sta dentro o si va fuori. I gironi li hanno vinti dunque il Tottenham, lo Schalke 04, il Manchester United, il Barcellona, il Bayern Monaco, Chelsea, il Real Madrid e lo Shakhtar Donetsk. Tra queste, Inter, Milan e Roma pescheranno la rivale dell'ottavo di finale, dovendo escludere la squadra già presente nel girone di qualificazione, per cui il Milan non può incrociare il Real Madrid, l'Inter non può incrociare il Tottenham, la Roma non può incrociare il Bayern di Monaco. Le seconde sono, per l'appunto, l'Inter, il Milan, la Roma, il Lyon, il Valencia, l'Olympique di Marsiglia e l'Arsenal, che non è riuscita, è riuscita a qualificarsi nell'ultima serata, cosa che era abbastanza scritta, ma che insomma era qualche margine di dubbio ancora se lo trascinava, ma non a rimontare lo Shakhtar Donetsk, e quindi non a piazzarsi al primo posto del girone, come era ampiamente invece da pronostico. Primo intervallo, strade. Adesso potremmo cominciare ad ascoltare alcuni vostri interventi, in attesa poi alle 14.30, dopo l'aggiornamento dei mercati, di ospitare Marco Beninazzo del Sole 24 Ore, che ci aiuta, perché ci aiuti a capire, ma sul serio, però, questa svolta improvvisa, per cui per 4 mesi Associazione Calciatori e Lega si sono presi a cazzotti, perlomeno su 2 punti, la ragione per cui uno sciopero 10 volte annunciato, è stato proclamato ufficialmente una volta all'inizio e una seconda volta 2 settimane fa in maniera ormai definitiva e ineludibile, e poi invece è arrivato il miracolo che, insomma, qualche dubbio sulla serietà, sì, io userei anche la parola serietà, delle due controparti, direi che lo lascia. Ci aiuterà a capirlo dopo le 14.30, dicevo. Adesso sentiamo Gaetano da Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Il mio è solo un'osservazione magari da fare, da rendere eventualmente pubblica. Moratti, secondo me, fa bene se critica un giocatore, un allenatore o un suo collaboratore, anche perché tira fuori grano, ne tira fuori tanto, quindi probabilmente ha tutto il diritto. Però forse non si ricorda i tempi passati, non così tanto passati, in cui le critiche, quelle pubbliche, non so quanto potessero servire come stimolo alla persona, anche perché siamo tutti umani, quindi le critiche forse non sempre vengono e o capite e o accettate. E la differenza dell'Inter con le altre società è che le altre società difficilmente fanno, dico difficilmente, a parte il Milan quando Berlusconi ogni tanto litiga confini, difficilmente fanno queste cose, dicono critiche, rendono pubbliche ed eventualmente, come si dice o come si diceva una volta, i panni sporchi si lavano in casa. Tutto qui. Sì, certo. E fin qua ci siamo. Se poi proprio uno decide che invece sbotta, no? perché gli scappa, e i panni sporchi eccezionalmente decide di lavarli in pubblico, beh, secondo me poi magari attrae le conseguenze, perché in fondo ad Abu Dhabi, questa resistibile partita di Abu Dhabi, che però ha un grosso valore dal punto di vista, come dire, della fama da un certo punto, ma anche economico dall'altro, perché poi c'è tutto un giro d'indotto. Insomma, mancano 8 giorni e ne mancavano, anzi ne mancano 9 in questo momento e ne mancavano 11 al momento del tracollo di Brema, sicché insomma, se proprio, cioè, tra delegittimare per l'ennesima volta il proprio allenatore oppure decidere che vabbè, mo basta, perché tanto ormai l'Inter una soluzione di riserva ce l'ha sotto mano, io credo, no? non penso che possa non averla. E quindi, insomma, si pensava a una delle due cose, cioè o uno tace ancora e tace, o comunque, insomma, trova il modo di, oppure invece va fino in fondo a quel punto. Ci sarebbe stata la terza via, che è quella di non farsi trovare ai giornalisti, ma questa è una via che, insomma, Moratti è presidente da una 15 anni e ormai abbiamo capito che è l'unica seriamente non molto praticabile. Saro ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno. Dica, Saro. Dunque, ho sentito che il Bologna avrà una penalizzazione per avere pagato in ritardo i contributi, non so. L'ha già avuta, ha già avuto un punto di penalizzazione ed è in attesa, si teme, di altri 2. Appunto, perché il Catania alcuni anni fa, per aver pagato con 3 giorni di ritardo, venne mandato in eccellenza. Quindi se l'articolo 3 della Costituzione, che garantisce che tutti i cittadini, diciamo, sono uguali, insomma, non vedo perché anche il Bologna non dovrebbe avere lo stesso trattamento. Saro, io immagino che il Catania ne avesse combinata qualcuno in più. Non mi chieda di ricordarlo, perché è proprio quello che le sto dicendo, sì. Io, solo alcuni giorni di ritardo del presidente allora Massimino, quando... E fu retrocesso da dove? Fu retrocesso, credo, dalla Serie B. Crede, dalla B all'eccellenza per alcuni giorni di ritardo. Saro, sì, lo escludo, la ripeto, senza ricordarmene, e anzi vantandomi di non ricordarmene, io semplicemente lo escludo. Poi, se invece vogliamo, perché ogni tanto non guasta mai, no? Far ricorso al nostro amato benaltrismo, e cioè ben altra dovrebbe essere la sentenza per il Bologna, perché a noi poveri del Catania, a noi del Torino, a noi del Vigevano, a noi di Codo, possiamo anche continuare ad andare avanti così, per carità. Daniele Padova, buongiorno. Buongiorno dottore. Ehi dottore, sì. Io avrei bisogno di avere un dottore oggi, non lo sento. Dica. No, in merito all'esclusione di Snyder dal podio del Pallone d'Oro. Sì. Non è che forse i giurati si siano ricordati che le vittorie ottenute dall'Inter l'anno scorso, la stagione scorsa, siano state in buona parte dovute a episodi, a sviste, a errori, sia soprattutto in Coppa e in seconda battuta anche in campionato. Forse a futura memoria ne hanno preso nota e se ne sono ricordati al momento opportuno. Questa arriva direttamente dalla curva Scirea, purtroppo intitolata Gaetano Scirea, oppure arriva direttamente da Padova, come leggo invece sul display? Letto è che volevo condividere con lei, l'ho letta su un quotidiano. Ah, ecco, quotidiano sportivo torinese magari? No, milanese. No. Milanese. Autorevole. Con le pagine rosa. Autorevole. Ah, altra eccellente lettura. No, senta Daniele, oggi c'è un po' il dentino avvelenato per ragioni di, appunto, di naso e di gola. Io escludo questo, nel senso che credo che abbiamo detto a Iosa, no? Che il percorso quasi netto dell'altro anno dell'Inter è stato segnato da tali e tante fortuità, combinazioni ed episodi favorevoli che per questo è irripetibile e per questo malissimo ha fatto l'Inter società a credere ad avere una squadra, la squadra più forte del mondo che sarebbe durata nei secoli, eh? Mentre invece erano stati, ripeto, come ha detto lei giustamente, tali e tanti gli episodi che... Però da lì a pensare che dei giurati votino Iniesta anziché Xavi, anziché Sneijder, tenendo conto di queste cose, veramente ci vuole, secondo me ci vuole una mente un po' malata. Non sto parlando della sua, sto parlando di quelli che sostengono queste tesi. Anche perché i meriti di Sneijder non derivavano, i meriti di Sneijder a una candidatura al Pallone d'Oro non derivavano soltanto dalle imprese interiste, ma anche da quelle olandesi. Perché credo che se Iniesta e Xavi sono stati certamente determinanti per le sorti della Spagna campione del mondo, ma con dei meriti da condividere con tanti altri compagni di altissimo livello, i meriti di Sneijder e in parte di Robben nell'aver portato in finale l'Olanda erano superiori, direi forse, qualitativamente a quelli di... E quelli dei due spagnoli, senza contare che i meriti di Messi nel cammino dell'Argentina non c'erano, perché Messi ha giocato un mondiale abbastanza deludente o comunque anonimo. Quindi la chiave di lettura di questa esclusione è una sola, ed è la suggestione di premiare una volta per sempre, una volta per tutte, una volta un vivaio intero, un'intera masia, come chiamano la cantera del Barça, facendone un simbolo del calcio moderno, forse volendo dimostrare che oggi, in un'epoca di calcio globale e di calcio che spende troppo e di calcio troppo legato al marketing, si può ancora costruire in casa il proprio campione, anzi la propria squadra di campioni. Penso sia l'unica spiegazione possibile. Rosario, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Scusa, signor Garanzini, non so se mi può rispondere perché ero in montagna e non ho ascoltato la sua trasmissione di martedì. Volevo chiedere un suo giudizio. Secondo lei il Palermo ha meritato di perdere ed era in regola con l'ultimo gol segnato dal Napoli? Sì, scusi, ma... devo scendere dai monti anch'io perché ero leggermente spiazzato. Più che il Palermo ha meritato di perdere, il Napoli ha meritato di vincere e il suo gol l'ha segnato regolarmente a, mi pare di ricordare, 13 secondi dalla fine del recupero, nel senso che il tempo era scaduto di 17 secondi, ma rispetto al recupero iniziale, ma avendo il Palermo effettuato una sostituzione, i 30 secondi in più hanno consentito al Palermo di trovare quel gol. Il boom informa Franco Pianeta, che ha fatto una leggerissima ricerca, così, ma proprio leggera nel senso di veloce, no? E non uno scandaglio vero. Quella retrocessione del Catania, di cui parlava l'amico Saro prima, secondo lui per un IRPEF o qualcosa del genere, insomma una sciocchezza non pagata, era nel 1992 un buco di 5 miliardi e 987 milioni di lire del 1992. A proposito, no, di obiettività. Mauro Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica Mauro. Senta, io volevo fare una discussione sulla prossima finestra del calciomercato che si aprirà a gennaio. Sì. E volevo chiedere, per quanto riguarda, visto che si vedono tanti e tali nomi, anche altisonanti, per quanto che riguarda il mercato della Juventus, a parte il fatto che io tra tutti gli attaccanti prenderei magari un rinforzo in difesa oppure un centrocampista, ma se proprio hanno dei soldi da spendere per un attaccante, lei cosa ne dice di Matri del Cagliari? salve, l'ascolto per radio. Dico che è un buon giocatore, certamente, Mauro, che fa comodo al Cagliari, che potrebbe far comodo a qualunque squadra in cui potesse andare, perché mi sembra un tipo di qualità e oltretutto in crescita abbastanza costante. Massimo Bologna, buongiorno. Buongiorno dottore, salve. Dica. Volevo replicare al signore che ha telefonato da Cagliari, anzi no, da Catania. Volevo dire soltanto che pensassero un pochino ai conti del comune di Catania. Sì, no, Massimo, mi scusi, la prego. Ho già risposto. Comunque, calcisticamente non ha nessun valore. Ho già risposto io con dei numeri. I conti del comune di Catania non c'entrano assolutamente nulla con i conti del Bologna Calcio e con i conti del Catania Calcio. Quello che purtroppo, quello che a me dispiace quando arriva un intervento intempestivo e sgradevole come quello dell'ascoltatore di prima, che purtroppo ne genera altri, e questa è la ragione per cui io prego sempre il centralino di evitarli, ma non certamente per evitare argomenti scomodi, ma per evitare minchie per ragioni territoriali di provenienza, no? Per evitare sciocchezze, ecco, che poi, ripeto, inducono altre sciocchezze, perché mentre sulla riflessione intelligente far proseliti magari è dura, sulla sciocchezza siamo sicuri che arrivano come le mosche al miele. Secondo intervallo di oggi, i mercati. Come preannunciato, mi ha raggiunto da Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tu sei qua per lo sciopero revocato e ci arriviamo, però insomma, l'attualità propone una notizia battuta dall'Ansa che agli occhi miei è dell'incredibile, quindi ti chiedo aiuto per capirla, che è la seguente: i tifosi della Roma potranno seguire la propria squadra impegnata il 18 dicembre a San Siro contro il Milan. Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Viminale ha infatti rivalutato, tra virgolette, la posizione dei tifosi romanisti alla luce dell'indagine della questura di Pescara nei confronti di un gruppo di violenti appartenenti alla stessa tifoseria giallorossa. Faccio un inciso brevissimo, nel senso che ne hanno arrestati soltanto 18, mi pare, l'altra notte, di cui uno, tutti coi domiciliari, ma insomma, per un incontro amichevole dell'8 agosto. Continua l'Ansa. Per l'incontro tra Milan e Roma, dunque, non sono state decise nella riunione di oggi limitazioni, e i biglietti potranno essere acquistati anche dai tifosi non, e sottolineo, non possessori della tessera del tifoso. Sarà la questura di Milano nei prossimi giorni, ed intesa con il Milan, a mettere a punto le misure per favorire l'affluenza dei tifosi romanisti. Io l'ho letta tre volte perché pensavo fossimo al primo aprile, contando anche un po' di febbre che oggi mi affligge. Invece non è il primo aprile, è il 9 dicembre, e noi leggiamo questa cosa a carico di due tifoserie che non vanno d'accordo, che non sono gemellate, ma virgola. Ma soprattutto di colpo non è più necessario essere possessori della tessera del tifoso. Allora ci deve aiutare a capire. Beh, probabilmente i 18 che hanno arrestato o i 16 sono i soggetti più pericolosi, e quindi il caso ritiene che non ci siano più pericoli. No, scherzo, al di là della battuta. È evidente che spesso le decisioni del CASMS sono legate a fattori che non sono così chiari e così trasparenti come altrimenti dovrebbero essere. Questa è una prima osservazione che mi sento di fare. I divieti continuano, tant'è vero che lo stesso CASMS oggi ne ha previsti tre per i tifosi di Brescia, Lecce e Palermo, che vorrebbero, che insomma, impegnati a seguire le proprie squadre a Catania, Napoli e Bari. Nella stessa giornata, in quel caso soltanto chi ha la tessera del tifoso potrà andare. Nel caso di Milan-Roma invece possono venire anche i romanisti, ma per che cosa? Io adesso non vorrei esagerare, ma insomma, per benemerenze no, perché no? Per benemerenze la tifoseria della Roma non direi, no? Né in casa né fuori. Chiaramente c'è una illogicità in questa decisione, un'incoerenza rispetto agli altri provvedimenti che sono stati adottati nella stessa giornata e nella stessa seduta. Ripeto, le motivazioni dovrebbero essere rese chiare, trasparenti e pubbliche, al di là dei generici motivi di ordine pubblico che vengono dichiarati di volta in volta. Bisognerebbe capire quali sono questi motivi di interesse pubblico. A volte si ha l'impressione che, come dire, l'interesse economico che ruota attorno a una partita partita prevalga sull'interesse, certo, alla sicurezza di chi la va a vedere questa partita, e si arriva a decisioni che giustamente lasciano sbigottiti. Come ti invidio questo aplomb, caro Marco Bellinazzo, perché sinceramente, cioè, io ricordo recentemente di aver letto qua dei divieti CASMS per le trasferte dei tifosi dell'Ancona a Corridonia, per le trasferte dei tifosi del Corridonia a, insomma, in un altro dalle parti di Montegrano, insomma, comunque. Beh, sempre... io posso leggerti, non so, dei divieti stabiliti per Alessandria Spezia, per Ternana Taranto, sì, per, non so, Villa Cidrese Giulianova di, ecco, Lega Pro. Villa Cidrese Giulianova già fa la sua figuretta, però i tifosi della Roma, che come è noto, che io non sto parlando dei tifosi come tifosi per bene, sia ben chiaro, beh, ce ne sono tantissimi, ma insomma, diciamo che la tifoseria sappiamo quale, della Roma, se ce n'è una in Italia da prendere con le molle è quella, o comunque fa parte del, no, di quel ristretto novero di tifoserie da prendere con le molle, no, senza tessere del tifoso. Mettiamola così, saranno contenti gli uomini della questura di Milano e, sì, del Milan, che dovranno, certo, gestire questa vicenda. Ci auguriamo che vada tutto bene. Secondo me è da interrogazione al Ministero degli Interni una cosa di questo genere, però... può darsi invece che non sia così. Ma questo era soltanto il primo dei misteri, no, che, più o meno gaudiosi, per i quali sei stato convocato al capezzale, e oggi è proprio il caso di dirlo. Quello in realtà, il principale, è perché su questi due punti famosi, che adesso tu ci ricorderai, Lega e sindacato si sono scontrati in maniera selvaggia per mesi, arrivando a riproclamare uno sciopero 10 giorni fa, per poi improvvisamente trovare un accordo? Perché chiaramente non sono questi due punti il vero nodo, la vera materia del contendere. È stabilire un chiaro rapporto di forze, un nuovo rapporto di forze tra le proprietà dei club e i calciatori, e in questo caso evidentemente chi li rappresenta. Non a caso la recrudescenza della trattativa, perché così è bene definirla, che qualche mese fa, nelle ultime settimane c'è stato, dopo che lo sciopero era stato sospeso, no, come ricordiamo, a metà settembre, è stato dovuto a un inasprimento delle voci che erano state, come dire, assemblate sul tavolo, da un lato quelle di Lotito e della Juve, i falchi per eccellenza, e dall'altro, diciamo, i rappresentanti dell'AEC più duri e puri, che hanno difeso l'esistenza stessa del sindacato, l'esistenza stessa che, ricordiamo, è stata messa in pericolo, o è tuttora messa in pericolo, dalla sorgere di altri più o meno spontanei sindacati di calciatori. Detto questo, siamo tutti contenti che lo sciopero non verrà più fatto, sabato e domenica si gioca, si è trovato l'accordo sui 6 punti su cui già c'era l'accordo 2 mesi fa, su quelli su cui non si voleva avere un accordo non ci sarà un accordo, nel senso che il famoso punto sui fuori rosa o sugli allenamenti separati, come piace, così lo chiamiamo questo punto, sarà disciplinato in realtà da un vademecum della federazione. Quindi il punto resta così com'è, in qualche modo le società sono legittimate a consentire agli allenatori di separare gli atleti, i gruppi, e quindi avere gruppi diversi, insomma, cosa che in qualche modo è fisiologico, data l'ampiezza delle rose, per evitare però fenomeni di mobbing e di atteggiamenti, diciamo, di ostracismo della società nei confronti di quei calciatori che non volessero, per esempio, rinnovare i contratti o accettare trasferimenti convenienti per la società. Ci sarà un vademecum, una sorta di circolare della federazione, che spiegherà cosa potranno fare le società, e superato quale limite invece ci sarà una lesione dei diritti del calciatore. Oh, fermo restando che insomma, queste rose ridondanti e il il diritto che le società, che i falchi in particolare, lo Tito, reclamavano di poterli far allenare anche a gruppi separati, eccetera. In effetti basterebbe avere rose meno ridondanti, perché non sono i calciatori che comprano se stessi, sono sempre le società che comprano. Molto spesso quando un calciatore è in esubero è perché l'acquisto è stato sbagliato. E quindi evidentemente si vuole riparare a un errore della dirigenza scaricando le responsabilità su chi ha semplicemente, come dire, approfittato di una buona offerta. Perfetto. Mi domando però questo anche. C'è un buon rapporto tra un discreto, forse buon rapporto tra la federazione e l'associazione calciatori, diciamo negli ultimi anni, anche per la presenza di Albertini che fa un po' da trade union, eccetera. Ci sono pessimi rapporti tra federazione e Lega. Allora, quello che mi domando è: perché da parte Lega, e questa andrebbe fatta a Beretta questa domanda, no? Perché da parte Lega far fare una così bella figura alla federazione, cioè nell'anno nero della Federazione Italiana Gioco Calcio, che insomma, una figura complessiva come quest'anno, tra nazionale e non solo nazionale, Serbia, Genova, eccetera, non l'aveva mai rimediata. Arrivare agli ultimi giorni, rivalutare l'immagine di Abete, che da mediatore, e da mediatore che non si arrende fino all'ultimo istante, è riuscito a farli sedere di nuovo ed è riuscito a trovare un accordo. Questa mi sembra indirettamente, non dico una sconfitta, ma non un trionfo di Beretta. Beh, diciamo che in qualche modo c'è stato costretto Beretta da quella che era la contingenza, chiamiamola così, giuridica, cioè sì. L'alta corte di giustizia del CONI ha ribadito che la federazione avrebbe potuto nominare un commissario ad acta per arrivare a concludere il contratto, e la Lega certo avrebbe potuto ricorrere al TAR, come pure ha ventilato come possibilità. Tuttavia si sarebbe creata una situazione per cui poi a scrivere le regole del contratto sarebbe stato un commissario nominato, certo, dalla federazione, e in qualche modo sarebbe stata la Lega, e quindi le società sarebbero state espropriate di un diritto, di una facoltà di condurre in porto le trattative. Dunque c'è stata una sorta di costruzione giuridica per cui evidentemente la Lega ha scelto poi di risedersi al tavolo e accettare in qualche modo il compromesso profilato proprio da Abete, che sicuramente ci ha fatto una bella figura, ma è stato agevolato anche dalla situazione del diritto sportivo, mettiamola così. Certo. Bene, allora siamo arrivati all'ultimo degli intervalli di oggi e poi torniamo per le conclusioni dopo aver sentito Strade e Autostrade. Ma siamo poi proprio sicuri, lo domando a Marco Bellinazzo, che da qui ai prossimi 3 anni, cioè tutto è sistemato tra Lega e Associazione Calciatori, punto per punto, e non ci sono ulteriori sviluppi negativi? Beh, approvato questo contratto collettivo, oggi peraltro sarà ufficialmente revocato lo sciopero, l'accordo sarà scritto, e da quel momento in poi le società potranno stipulare nuovi contratti, dovranno uniformare quelli che già sono stati siglati questa estate, e si potrà far valere nel concreto questi nuovi principi, questi famosi 6 punti di cui ormai si è parlato fin troppo. Quindi l'accordo appunto è stato trovato sulla flessibilità, con una soglia economica per cui sopra i 400.000 euro, forse 500.000, poi vedremo come sarà scritta la norma, si potrà avere come dire, un massimo, un'assoluta libertà e flessibilità, quindi la parte di ingaggio superiore a questa somma potrà essere legata al rendimento della squadra, del calciatore, quindi ci sarà un'assoluta coincidenza tra quello che saranno i risultati conseguiti dalla squadra e lo stipendio del calciatore, che se vogliamo è l'assunzione di un rischio di impresa da parte del calciatore, ma anche giusto per aiutare i bilanci in sofferenza dei club. Sotto quella soglia invece si potrà arrivare al massimo al 100% di una quota di flessibilità, mentre ora è il 50%, quindi mettiamo 400.000 euro come limite, ci potrà essere un'altra soglia di 400.000 euro legata appunto al rendimento, con invece una decurtazione secca in caso di retrocessione. Questo è l'aspetto, come dire, economico nuovo che avranno i contratti, e ripeto, sarà un importante aiuto ai bilanci dei club. C'è invece tutta l'altra parte che il contratto di Chiellini ha portato alla luce, che è quella diciamo della ingerenza, secondo alcuni o secondo altri, del controllo da parte della società di un controllo più stringente sul comportamento del calciatore anche fuori dal campo, e quindi insomma tutta una serie di clausole che potranno essere inserite nei contratti, addirittura sul sito del calciatore, insomma, che dovrà rispondere a certi standard, o sul vestiario dell'atleta. Ma è questo sarà oggetto, ci stai dicendo, di approfondimenti ulteriori, oppure? No, saranno, diciamo, il contratto collettivo prevederà questa possibilità, e poi i vari contratti che saranno stipulati potranno essere, come dire, in accordo e seguire, e la fantasia sarà sovrana da questo punto di vista. È chiaro che se si va oltre certi limiti, poi il calciatore potrà non accettare o eventualmente impugnare determinate clausole troppo diciamo limitanti o offensive della dignità dell'atleta, certo. Ma lì insomma non penso ci si arriverà molto facilmente, a meno che poi non entreranno in gioco i soldi che determinano tutto, che come è noto poi il loro peso lo tengono. Allora, io in attesa di qualche ascoltatore che mi segnalava dalla regia probabilmente vorrebbero intervenire su questi argomenti, io sentirei prima che cosa ha scovato Nicola Filippone per il giorno 9 dicembre. Sembra ieri. 9 dicembre 1990. Seconda coppa intercontinentale consecutiva per il Milan di Arrigo Sacchi, che a Tokyo piega i paraguayani dell'Olimpiade Asunción. I rossoneri si impongono per 3-0. L'uomo partito è Frank Rijkaard, che segna la prima e la terza rete, mentre la firma sul 2-0 la mette il giovane Stroppa. Risulta decisivo anche il contributo di un incontenibile Marco Van Basten, che propizia 2 dei 3 gol. L'intercontinentale del 90 è l'ultimo trofeo della vittoriosa gestione Sacchi, che a giugno lascerà la panchina a Fabio Capello. E questa era la Marcord del 9 dicembre. Vittorio ha chiamato nella provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, certo, dica. Pronto? Vittorio. Sì, Vittorio, dica. Buongiorno. Volevo provare a tentare di dare una spiegazione alla questione Roma-Milan e tessera del tifoso. Se si può pensare come la penso io, penso che sia dovuto al fatto di poter controllare la tifoseria, cioè se arrivano tutti insieme, si ingruppano, si mettono in uno spicchio di stadio come si faceva prima, insomma prima della testa del tifoso, se no succede che i tifosi, diciamo buoni, chiamiamoli normali, quelli con la tessera del tifoso, vengono presi, controllati e portati diciamo nella loro zona, e quelli invece senza tessera del tifoso, chiamiamoli un po' più caldi, sono liberi di andare nei distinti dove vogliono. Ah, certo. Siccome sai cosa mi ricorda, Vittorio? Cosa mi ricorda la sua teoria? Quello che è accaduto a Marassi, per l'appunto, no? E cioè che per evitare che bande di ultra violente e ubriache e drogate potessero eventualmente entrare in settori non compatibili con il loro, o comunque far danni all'esterno, si è detto no, ma facciamoli entrare che non si sa mai, e così gliela si dà vinta in partenza. In realtà io credo che con i provvedimenti restrittivi queste conseguenze non ci sono, perché le tifoserie restano semplicemente a casa in un paese di diritto. Beh, di fatto quella che sarà sottolineata è una incongruenza della tessera del tifoso che abbiamo più volte denunciato. In sostanza, chi ha la tessera del tifoso ce l'ha per andare nel settore ospite, chi non ce l'ha potrebbe teoricamente acquistare i biglietti e andare in qualche altro settore. Il problema è che, diciamo, ci sono quelle limitazioni, per esempio il fatto di non poter acquistare il biglietto se non si ha la residenza in una determinata provincia, che dovrebbero proprio impedire questo, e peraltro i più violenti in teoria dovrebbero essere, come dire, destinatari di DASPO, di altre misure restrittive che dovrebbero proprio impedirgli di avvicinarsi a qualsiasi impianto sportivo. Difatti mi pare che questa sia, no, la riflessione da fare, fermo restando che adesso leggevo dei messaggi abbastanza indignati prima, dopo che abbiamo sollevato questo argomento. Per esempio c'era un bresciano, se non ricordo male, adesso non riesco a ritrovarlo perché sono troppi gli sms arrivati nel frattempo, un bresciano diceva: ma come, la settimana scorsa non ci hanno fatto venire noi bresciani a San Siro? Siamo gemellati, Milan e Brescia sono gemellati da anni, non hanno fatto venire noi bresciani a San Siro questo famigerato CASMS? no? Senza alcun pericolo, quindi, di incidenti, e fanno venire i romanisti a Milano per cosa? Per premio, per tutto quello che gira e balugina, diciamo balugina dalle parti dei ponti sul Tevere quando gioca la Roma e magari anche la Lazio. Ma è una pazzia, è quello che cercavo di dire prima. Forse le motivazioni, anzi non forse, sicuramente dovrebbero essere più chiare le motivazioni di questi provvedimenti, e soprattutto altrimenti si lascia il sospetto che siano imperscrutabili motivi, o che siano prettamente, per dirla in maniera chiara, dei motivi economici. Chiaramente, certo, la tifoseria della Roma nella sua numerosità è più appetibile di quella del Brescia. Vabbè, per un incontro di calcio. Però finiamola, cioè aboliamo il calcio, aboliamo i pretesti che diamo a questa gente. Maurizio da Parma scrive: si è impedito ai tifosi della Sampdoria gemellati di andare a Parma, e quelli della Roma possono andare a Milano. È una vergogna, ma hanno ragione, cioè è oggettivamente una vergogna. Io spero ancora in un errore di battitura dell'Ansa, spero ancora che il redattore dell'Ansa, che ha materialmente vergato questa notizia, avesse passato un paio di giorni, come dire, di vacanze, di bagordi, e non abbia capito bene. Ho la sensazione però di no. Claudio da Piacenza, buongiorno. Dica, Claudio. Pronto? Sì. Buongiorno. Mi chiamo Claudio. Si chiamava Claudio. Ma continua. Sampdoria Parma vietata nonostante un gemellaggio di 20 anni. Questa istigazione alla violenza, dunque, insomma, continue. Tra l'altro c'è da dire che la struttura del CAMS è molto composita, e dovrebbero esserci tutte le professionalità per conoscere queste situazioni, cioè voglio dire i gemellaggi piuttosto che le inimicizie tra le tifoserie, e dunque c'è un'assoluta incomprensione. Forse ci ripetiamo, ma è il caso di sottolinearlo, perché altrimenti la reazione dei tifosi è questa, insomma, ci si sente quasi preso in giro. È una delle notizie più incredibili che ho letto negli ultimi forse anni, mesi certamente sì. Ci sono anche un altro paio di notizie, queste certamente non faranno piacere ai tifosi del Milan, perché sono notizie sanitarie. Allora, Flamini è fuori per un mese, il che vuol dire che nella migliore ipotesi rientrerà dopo la sosta natalizia, e c'è un menisco per Thiago Silva, il che significa che anche per lui, nella migliore delle ipotesi, anche di lui se ne riparlerà con la ripartenza del campionato dopo quella dell'Epifania. Allora, grazie a Peter Bescapè in regia, a Franco Piantanini in redazione, grazie a Marco Bellinazzo, grazie a voi, a presto, per essere stato con noi, grazie al CASMS per averci dato per l'ennesima volta spunti di grande interesse, e buon pomeriggio a tutti.